di perfida. E tu, fiero nemico, lasciami favellar, e ti prometto l'ultimo giorno che m'ascolti è questo. Osteria, che per figlia non ti avviso più, dimmi, sei quella che giurò il Tamerlan odio e vendetta? Tu sorella d'Ortule, tu figlia Bajazet, tu del sangue ottoman, perfida menti! Ecco il fin dei tuoi sdegni, ecco qual era sin d'allora il tuo cuore. Ma perché pria del tuo nemico amare non ottenesti al genitor la morte per averne poi tu reina in mezzo? Ecco il petto, ecco il capo, or via, che tardi! Quest'ultimo ti resta ancora tra i tuoi delitti. Ma non sperar, m'estingo, pace mai su quel trono, spaventano i tuoi sogni ombra vagante, e sarò tuo rossor padre tranito, e io contro te l'ombra infelici, e la tua genitrice del cervello. Nell'odio tu, nell'odio mio sicuro. Disumanato, un padre disperato, ti dimanda la morte, e ti minaccia, e a pietà e a timore, ciò non ti muove, andiamo a mendicar la morte altrove.